I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. Voglio annunciare qui al Parlamento che è in cantiere un decreto legge che permetterà ai giudici, alla luce del nuovo quadro sanitario, di rivalutare l'attuale persistenza dei presupposti per l'escarcerazione di detenuti di alta sicurezza e al regime di quel 41 bis. Grazie. Trovare l'equilibrio tra la sicurezza del mondo di fuori e la salute di quello di dentro. Trovare il confine tra due diritti fondamentali, questo è il compito di chi amministra le carceri a tutti i livelli. Con l'emergenza coronavirus, dopo le rivolte, i morti, dopo le fughe e le devastazioni, dopo i primi contagi e i primi provvedimenti per provare ad evitarli, il mondo del carcere è tornato al centro del dibattito e dello scontro. Soprattutto per i domiciliari concessi per motivi di salute a 376 mafiosi che ora appunto si vorrebbe riportare in cella con un nuovo decreto in una fase 2. Ma come spesso succede, i casi finiscono per offuscare tutto il resto. E allora, cambiata la prospettiva, è il resto del mondo del carcere che qui ora vogliamo provare a raccontare un po', tralasciate le polemiche, tralasciati i timori sul ritorno in libertà dei boss, tralasciati gli scontri sulle nomine e i retroscena svelati in diretta TV. Siamo saliti sul tetto per ascoltare le loro ragioni, anche perché la storia del coronavirus non ci convinceva, infatti non c'entrava assolutamente nulla il coronavirus, ma bensì avevano colto, diciamo, questa occasione di questo momento storico un po' particolare, un po' sui generis, diciamo, per rivendicare un trattamento carcerario migliore, a partire da una diminuzione delle presenze nelle carceri. A San Vittore sono in 1200, dovrebbero essercene 700. Quando è salito sul tetto di San Vittore, Alberto Nobili era sicuro che ancora una volta la soluzione non potesse che essere fermezza e fiducia. Quando è entrato nel cestello dei Vigili del Fuoco, insieme al collega Gaetano Ruta, il procuratore aggiunto di Milano ha raggiunto i detenuti del carcere in rivolta, il suo è diventato il volto della giustizia che cerca la mediazione. E questa, a suo dire, dovrà essere sempre più la strada da battere, ora che il coronavirus ha stravolto anche i riti dei tribunali e la strada. Per questo magistrato, disabituato ai riflettori, che per 40 anni ha catturato mafiosi e sequestratori, non può che condurre verso un carcere di qualità, dice, dove chi ha commesso reati gravi ci resta senza sconti, ma dove molti di quelli che oggi affollano le celle non ci entrano neanche in carcere. In un complesso e faticoso equilibrio tra diritti essenziali, a cominciare da quello alla salute, da garantire anche a chi si trova dall'altra parte dei muri di cinta, perché questo dice la Costituzione, e l'altrettanto essenziale diritto alla sicurezza di tutti gli altri del mondo di fuori. E allora la ricerca di questo equilibrio è diventata un tarlo per un magistrato che in cella ne ha mandati tanti di delinquenti. È un mio tarlo che in Italia ci sono, c'erano fino a pochi 61.000 detenuti, sì. Bravissima, adesso siamo diventati circa 15.000 in meno, grazie a tutta una serie di provvedimenti, di trasferimenti, di scarcerazione. 20.000 di questi circa sono tossicodipendenti. Certo. Che cosa ci fa un tossicodipendente in carcere? E infatti voi anni fa avevate avviato anche quel progetto con i CERT e con Pagano, certo, per portarli appunto al di fuori del carcere. Pagano, Gigi Pagano era stato straordinario, perché vedi, ecco, la cosa bella, se vogliamo, è che rendendosi conto della fragilità e della quasi inutilità del sistema carcerario italiano, chi si è mosso non sono stati i politici, ma sono stati o i magistrati o ancora prima, i direttori delle carceri. La pena deve essere una pena di qualità. Noi ci battiamo dentro tutti. Abbiamo 20.000 tossicomani che non fanno nulla, non lavorano. Ci sono circa 30-40.000 detenuti che non fanno niente. Certo, e stanno in cella tutto il giorno, per cui questo... Stanno in carcere lì, eccetera. E questi sono non solo un rischio, perché maturano una forma di non alibi, però nel momento in cui dice mi hai fatto stare 10 anni in carcere, non mi hai insegnato un lavoro, non mi hai dato una chance, non che sia colpa dello Stato se quello ha fatto un reato per cui ci ha fatto i 10 anni, però Sì, nel però momento è in cui una, diciamo, sconfitta dello Stato non averlo recuperato. esatto, quello esce e c'è un indice di recidiva, infatti, Certo. molto alta. Certo. Io sono per una riduzione drastica, ma guarda, a conti fatti, a spanne, proprio ragionando come togliere, per me i detenuti dovrebbero essere 15-20 mila, ecco, rispetto agli attuali, cioè ridotti ai soggetti veramente pericolosi, ai mafiosi, ai corrotti, ai pedofili, ai violentatori, ai seriali, eccetera, eccetera. Quelli hanno bisogno di quella che è la vera funzione della pena, che la pena ha una doppia funzione, sanzionatoria, cioè ti punisco, hai Certo. commesso un reato e ti devo punire, e rieducativa, come Certo. dice la Costituzione. Certo. Se io applico solo la parte sanzionatoria, È il abbiamo un carcere che carcere riproduce se stesso, certo. esattissimo, non ci sono politici che si occupino del mondo seriamente e a fondo del mondo del carcere, perché è perché è Ma antielettorale. certo, il Cioè, carcere non piace a nessuno parlarne. se una persona ha commesso un reato, c'è una vasta gamma di possibilità. Noi partiamo subito dal carcere, via dentro. Poi magari esci dopo 2 giorni, sicuramente. Ecco. Però c'è questa cultura, questa mentalità di un approccio immediatamente, come dire, cruento. Lo Stato non ha la possibilità di affrontare quello che è il vero tema della rieducazione carceraria, che è il lavoro. È il lavoro. Se non riusciamo a risolvere il problema dei 20.000 tossiconi, i quali ma, ci sono tante terre incolte in Italia, ma tante possibilità di andare a fare del bene sotto il profilo ambientale, sotto il profilo della pulizia, proprio Ma pulizia certo, fisica. come fu fatto anche a Milano durante la nevicata o Ma come avvenne anche con certo, in Expo, 5 minuti certo. furono fatti uscire centinaia di detenuti, fecero il loro lavoro, furono pagati 50 euro a testa e tornarono tutti in carcere. Certo, Cioè, certo. Adesso questo si impone di più, diciamo, ora che è questo. stata mostrata ancora di più questa necessità e anche questa impossibilità di tenere delle È carceri in stata questo modo. mostrata ancora di più perché si è dimostrato che tanta gente che sta in carcere può non starci. Il coronavirus è stato un'occasione, c'è una malattia, c'è il rischio di Sì. una epidemia, eccetera, eccetera. Ecco, quindi mandiamo a casa il più possibile. Ma questo mandare a casa il più possibile non lo potevamo fare anche prima? Gente che deve scontare 2, 3, 4 mesi ancora. Cioè, io sono, sì, ti dico, per la certezza della pena, ecco, però nel momento in cui l'hai scontata per la gran parte, sei arrivato a un percorso finale, e a quel punto, se lo Stato non mi garantisce la possibilità di un lavoro, perché la gran parte dei detenuti, quando escono a carcere, la prima cosa che fanno è subito 2 o 3 rapine. Certo, Ma per non pagarsi i per... debiti, certo. Esatto, bravissimo, no, non per divertimento, ovviamente, non per scaldarsi i muscoli, ma perché hanno accumulato una marea, la famiglia, una marea di debiti, per cui e non hanno avuto nel carcere la possibilità di, come dire, lavorare. Il lavoro nel carcere ha una valenza pazzesca, straordinaria, perché ha un valore aggiunto che è quello del riscatto sociale. È un riscatto sociale quello di lavorare, impegnarsi, prendere lo stipendio a fine mese, contribuire alla famiglia, eccetera, che non ha uguali. Allora, o lo Stato riesce a garantire, non dico per tutti, perché ecco, ma la gran parte riesce a garantire questa forma di riscatto sociale, o, ripeto, creiamo il carcere che crea se stesso. perché sui 60.000 quanti sono detenuti che abbiamo, almeno 40.000 fanno parte o della schiera dei tossicomani o dei migranti. Sì. E se a queste persone tu non gli dai una chance di potersi in qualche modo riscattare, di crei questa forma di questa sacca di futuri detenuti che finiscono anche facile preda di organizzazioni criminali, sì, e di vari appena escono, ma sì, ma poi già dentro il carcere c'è una gran manovra di, certo, reclutamento, proselitismo, eccetera. Se il carcere è lo specchio dei problemi di fuori, conoscerlo aggiunge una prospettiva in più, anche ai più alti tra i giudici, quei membri cioè della Corte Costituzionale che è il più importante organo di garanzia della Repubblica. Giudici di leggi e non di persone, che però quelle persone recluse in carcere hanno voluto incontrare comunque l'anno scorso. Ne venne fuori un viaggio in Italia che già raccontammo a Storiacce e che ora però vi ripropongo. Da qui riparte I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. La festa della Repubblica è anche lì e loro l'hanno voluto ricordare con una iniziativa senza precedenti. La Costituzione non si ferma davanti ai muri di cinta e lì, dall'altra parte dell'orizzonte, l'hanno voluto apportare i giudici della Corte Costituzionale con un viaggio negli istituti penitenziari e poi con un film dentro queste città invisibili. Questa è la storia oggi di Storiacce. La Costituzione oggi entra nelle carceri di tutta Italia per raccontarci un viaggio che parte dal carcere romano di Rebibbia e che vedrà altri istituti di pena coinvolti. Perché dopo 63 anni dell'istituzione della Corte Costituzionale voi avete deciso di venire in carcere? Se volete rispondere a questa mia domanda, sappiate che i 60.000 detenuti italiani saranno ben lieti di ascoltare questa risposta. Viaggio in Italia, la Corte Costituzionale nelle carceri, prodotto da Rai Cinema e Clipper Media, è la storia di molti incontri, di un'umanità dolente e di vite che la Carta Costituzionale non trascurava. Un viaggio questo che è il racconto di un continuo scambio tra due mondi chiusi, da una parte i sommi custodi della Carta Fondativa, i giudici di leggi e non di persone, dall'altra coloro che li hanno infrante le leggi, i primi chiusi tra gli stucchi settecenteschi del Palazzo della Consulta e fino a due anni fa sconosciuti all'85% degli italiani, i secondi, obbligati tra celle, raggi e camminamenti, rimossi dallo sguardo e dalle coscienze e qui invece svelati in una dimensione diversa da quella creduta. Così non sono barbari mostruosi i detenuti incontrati, ma facce comuni. E la pellicola, per la regia di Fabio Cavalli, ripercorre questo dialogo senza toghe né matricole, ma con un linguaggio comune, la Costituzione, e con una successione di volti. Quelli dei giudici e quelli dei detenuti, ciascuno con il proprio vissuto, i propri limiti, con gli errori commessi o le opportunità ricevute, con i drammi patiti e i bisogni condivisi, volti che si avvicinano, si toccano, si confondono quasi intorno ad uno stesso desco. Siete parte della vita di questa comunità che è la Repubblica Italiana. L'applauso sorgivo e prolungato cancella la distanza del noi e loro, ricorrente nella narrazione del sistema penitenziario. Da vicino allora tutto cambia e restano solo le persone davanti alle telecamere, entrate insieme ai giudici nel carcere vero, in celle affollate, dove si fanno i turni per sgranchirsi le gambe, dove la luce filtra obliqua tra grate ingombre di panni. Tra corridoi dove braccia coperte di tatuaggi si allungano al di là dei chiavistelli e l'aria stessa sembra reclusa, mentre c'è chi salmodia un rosario e chi stende il tappeto verso la Mecca. Tra i detenuti comuni c'è anche chi rinuncia ai permessi di uscita perché tanto, al di là di quel muro, non c'è nulla di meglio ad attenderli e allora diventa casa questa cella, come dice Lucia, detenuta transgender. una vita buttata tra carceri dall'87 ad oggi. Ho perso la mia famiglia per la mia scelta di Lucia, che ne vado orgogliosa, perché mi sento femmina, non ho prostituta, la cosa è diversa. Noi siamo 19 figli. Mio padre, per vedermi di maschio, è maschio, mio padre era un boss della camorra, è maschio, cominciò a usare violenza nei miei confronti. Mi legò a un tavolo di ferro i sotterranei di Scampia, dove tagliava la pasta di coca, per 9 mesi. Mi fece violentare. Questa è la mia casa. Questa è la mia casa. Quindi ogni condanna per me era un regalo. E lo è ancora. Sembra una pazzia, ma lo è. Anche perché io senza di loro dove vado? Che senso c'ha la vita fuori senza nessuno? Nello sterminato contenitore dei problemi non risolti di fuori, che è il carcere, per dirla con la definizione del garante dei detenuti, Mauro Palma, si incontrano allora l'immigrato, entrato regolare con permesso di soggiorno ma che uscirà da clandestino, la donna che rivive le violenze del marito, la transgender che considera le nuove condanne occasioni per restare nell'unico posto che sente come casa. C'è chi racconta di aver commesso reati per non aver mai trovato lavoro e chi lamenta come il lavoro da ex detenuto non lo trovi mai. Ho cercato sempre di reinserirmi nella società, ma purtroppo non ce l'ho fatta. Ma non è che non ce l'ho fatta perché non ho voluto io, perché non ho mai trovato lavoro. Ma dimmi una cosa, se tu sei sempre stato un delinquente e tu vuoi il lavoro, e quelli che non hanno mai fatto reato non trovano il lavoro e te lo danno a te che sei un delinquente. Allora io cosa devo fare? Devo morire in galera? L'idea di fondo che sta dietro l'articolo 27, comma terzo, è quella secondo cui la persona del condannato, abbiamo scritto, non resta segnata in modo irreversibile dal reato che ha commesso. Il condannato non è il suo reato, questa è la cosa fondamentale. Perché al momento che io esco, cosa mi domandano? Mi domandano il curriculum. Il curriculum io non c'è, cosa ci posso, che curriculum ci posso dare? Ci do che sono stato in galera. Io ce l'ho una qualifica dalla scuola alberghiero. Se vado a chiedere un lavoro a un albergo, dicono curriculum, cosa devo portare? Il curriculum della matricola che sono stato in carcere. Io spero che, come dire, l'obiettivo della risocializzazione sia quello di darvi opportunità concrete di reinserimento nel mondo del lavoro. Questa è la grande sfida per la nostra società, di rimboccarvi le maniche, come dicevo, e di contribuire con la vostra attività retribuita al miglioramento di questa nostra società. E questa è la grande sfida che vi attende. Ad ogni mandata di chiave si snoda il romanzo corale di questi vinti, che espiano dietro le sbarre la rottura del patto collettivo, sempre più spesso maturata tra i gironi della tossicodipendenza e della marginalità sociale. In nome del popolo italiano, loro sono stati limitati nel movimento, ma non negli altri diritti, affinché affrontino un percorso che li restituisca migliori all'esterno. Ma troppe volte il carcere, come ben sa chi ha passato all'interno un'intera esistenza, ma da direttore come Luigi Pagano, troppe volte il carcere, dicevamo, genera solo altro carcere. Credo che sia proprio anche una questione di opinione pubblica, cioè nel senso che tu puoi fare qualsiasi legge, la migliore di questo mondo, però poi per poterla verificare hai bisogno che l'opinione pubblica ci crede e che dia la mano, specialmente nel carcere questo è essenziale. Se poi la tua persistenza, il fatto di rimanere al governo, deve rifarsi l'opinione pubblica, il rischio è che crei dei blackout. Probabilmente bisogna ancora spiegare, non l'abbiamo fatto ultimamente con la Bocconi, di quanto proprio dal punto di vista proprio statistico, con i criteri, con dati alla mano, quanto quella pena lì, la pena alternativa, una, cioè diversa al carcere, incida proprio sulla recidiva, cioè nel senso che abbatte la recidiva. Ecco, allora non un discorso ideologico, io ci metto anche quello ideologico, ma un discorso proprio pratico. Il rischio è che il carcere perpetui se stesso. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che e impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Ma questo succede. E la domanda di questo ragazzo resta come sospesa, mentre di cella in cella, di carcere in carcere, da Rebibbia a San Vittore, da Nisi, da Lecce o Genova si sovrappongono le facce e si rinnovano i dilemmi del peso del contesto in certe scelte sollevate dalla giudice Daria De Pretis. C'è la donna finita dentro per amore, come racconta, e ci sono mamma e figlia inquadrate dalle telecamere con le loro vite da sempre scandite dal carcere, prima come visitatrici, ora da detenute. Ho conosciuto il carcere quando ero piccola, per la mia famiglia, soprattutto per mio padre. Abbiamo fatto questa vita sempre, da piccole, sia io che le mie sorelle. Purtroppo adesso mi ci ritrovo anch'io. Ho un compagno, purtroppo anche lui è detenuto. Potessi tornare indietro, avrei fatto un passo che magari avrei dovuto fare molto, molto tempo fa. Cioè, lasciare mio marito, in poche parole. In questi incontri, questo variegato popolo delle carceri, specchio del paese di fuori, ha scoperto nella carta il suo principale scudo, ma ha anche ascoltato l'ammissione di un membro della corte che confida di non aver fatto il magistrato per non avere il potere di togliere la libertà. C'è un pezzo di Costituzione italiana che aspetta di essere attuata. Giuliana Amato va a Nisida nel carcere minorile e spiega a questi ragazzi, dalle storie molto diverse rispetto a quelli incontrati nelle scuole, come in base alla Costituzione le differenze nella società non dovrebbero esserci. Questa almeno l'aspettativa trasmessa dai padri della Repubblica. Abbiamo fatto degli incontri con dei giovani alla ricerca dei valori comuni, no? Per me è un test importante anche questo. Cogliere le differenze che ci sono, sono coetanei, forse hanno le stesse aspettative, forse no. Alcuni li trovi a scuola, altri li trovi nel carcere minorile, no? Certo. È chiaro che ti domandi, ma perché è successa una cosa simile? Volevo cominciare subito con le rapine. Buttai a terra mezzo appartamento, andai in cucina, cominciai a svuotare un barattolo dopo l'altro, ed eccoli là i gioielli. Le dico una cosa al termine di questa nostra chiacchierata. Io da ragazzo, mio padre voleva che facessi il magistrato e io non l'ho fatto perché pensavo che un giudice ha il potere di togliere la libertà ad un altro. E io questo potere non lo volevo. Ancora conta se tu sei figlio di qualcuno o se sei figlio di qualcun altro. La tua intera vita può cambiare. Anzi, di questi tempi, quanto più sono aumentate le diseguaglianze tra di noi, tanto più sta accadendo un fenomeno che proprio non dovrebbe accadere al nostro tempo, che ci sono delle famiglie così ricche che vivono vite diverse, che non prendono mai un mezzo pubblico perché hanno solo mezzi privati anche quando volano, che non vanno mai i figli nelle scuole dove vanno i figli degli altri. C'è un pezzo di Costituzione italiana che aspetta di essere attuata. Il bello di questa Costituzione non è che degli uomini di partiti diversi, molto saggi, molto colti, seppero scrivere con parole semplici e condivise. Tutto questo è vero, ma ce n'è tanti di documenti scritti da uomini saggi e colti con parole semplici e condivise. In realtà questo documento nasce da un clima e l'aspettativa con cui il documento fu scritto. L'aspettativa era che quel clima sarebbe rimasto e che quel documento, una volta attuato e rispettato, sarebbe servito a far rimanere quel clima. Perché se quel clima non rimaneva, noi non riusciamo a trattarci da uguali. Non ci sono sentenze durante questo viaggio che è geografico, educativo, emotivo e che, come il viaggio in Italia di Guido Piovene, prova a portare alla luce quanto era rimasto nel buio. A cominciare dalle reazioni inaspettate degli stessi giudici, come Daria De Pretis nel carcere femminile di Lecce. Volevo chiedere io a lei cosa porterà via oggi, dopo questa giornata trascorsa nel carcere, visto che noi non abbiamo potuto darle più che altro la nostra vita complicata delle donne detenute. La ringrazio in anticipo per la risposta. Allora, cosa porto via? Porto via le vostre facce, le vostre facce di donne che, come me, hanno... Scusi. E mentre a conclusione del viaggio si diffondono le note dell'inno nazionale, sventrano dalle bandiere i panni colorati dei detenuti, novelle bandiere di un pezzo della Repubblica troppo spesso rimosso. Racconti di storiacce di Raffaella Calandra, con la regia di Andrea Roccabella. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce o seguiteci su Twitter all'account Raff Calandra e su Instagram.